essere schiava per conservare il favore del popolo. Io non posso tenere ogni giorno una plebe che applaude e adora il ciarlatano che urla più forte di tutti gli altri. Come posso chiamare re colui che deve sempre piacere al suo popolo? Solo chi può fare quello che vuole senza dover sottostare all'opinione altrui è veramente un sovrano. Che stanchezza e che schiavitù immensa regnare. Che stanchezza dover ammansire ogni giorno una plebe che io disprezzo profondamente. Chissà, chissà quando finalmente sarò libera. Libera su questo trono. Sarà meglio quando sarà libera. Si libera. Si libera. Lo so che cosa pensate. Che sarò libera quando sarò morta. Beh, anche voi sarete libere quando non ci sarò più. Libere e morte di fame. Perché chi verrà dopo di me vi sostituirà. Porterà altra gente e la mia vendetta sarà compiuta. Vi dovrete rimpiangere. Siete brutte e non siete neanche riuscite ad accalappiarvi un maschio. Ma c'è una differenza tra me e voi. E come si dovrà aspettare? e inginocchiarsi al mio passaggio. Lo pretendo. E ci sono abituata. Ciò che il destino ha voluto per me. Parlo, ma voi non intuite minimamente che ogni donna ha la forza per diventare regina. Io sono regina d'Inghilterra e d'Irlanda. Questa è un'altra storia, un caso imprevedibile. Oh. pensato che mi avrebbe tagliato la testa. Nella mia famiglia è casi un solo ragno. Anche mia madre, Anna Bolena, decapitata. Momenti terribili. La morte di Edoardo, mio fratello sempre malato. La salita al trono di Jane Grey, appena 17enne, discendente della sorella minore di mio padre. E mia sorella, Maria. Sorella, figlia dello stesso padre. Io a Maria non ero molto simpatica, come se fosse una colpa essere la figlia della rivale in amore di sua madre. E mi mise nella torre più alta di Londra e dopo in un castello, sperduto nella miniera. Ma è stata la mia fortuna, lontana da Londra, lontana dalla corte, lontana dai pettegolezzi. Io sono sopravvissuta. Io ce l'ho fatta. Mi piacerebbe non pensare, non preoccuparmi di niente, di nessuno. Sarebbe meraviglioso, no? Avere un po' di pace. Mostrerò sana e in buona salute. tranquillo. Era il popolo vive di illusioni. Pensa che chi lo comanda lo possa aiutare. E questo ti fa credere com'è. Pensare al potere sia una menzogna. Chi sale sul trono per elezione divina, come pensano i nostri sovrani, ci rimane solo per soddisfare le proprie esigenze. Alla gente basta poco. Una smorfia fatta da una finestra verso la platea. E la platea non verifica mai la consistenza del paese. E ti ripaga sempre con il suo vuoto chiassoso entusiasmo. Anche il dolore è uno spettacolo. Un godimento che ti fa perdonare di essere un criminale. Che il popolo nella sua sete di ambizione e di sentimenti perdona sia chi lo fa ridere che lo fa piangere, senza mai occuparsi dei mezzi impiegati. Non sono una grande presa? luci e profumi, con un raggio di luce studiato apposta. Io sono lì, io sono ieratica, in un turbinio di velluti, colori e gioielli. Io lascio tutti, ambasciatori e principi estasiati. E poi dietro di me io ho un paese ricco, ho ritirato persino le casse dello Stato espropriando tutti i beni della Chiesa. E voi invece, voi che cosa avete dietro di voi? Dei culi, belli e avvizziti. Certo, sono stata invidiata anche dalla corte di Francia che in quanto a sfarzo spese parte non è seconda a nessuno. Mi sarei dovuta sposare il duca d'Anjou per rafforzare l'alleanza con i nostri due paesi. E il duca aveva il suo charme francese che a pelle piace subito alle donne. E ho passato una notte intera a pensare ai pro e contro di questo matrimonio. Lui che cosa portava? È il suo charme. E io invece, un paese ricco, potente, via d'espansione, avrei perso la mia libertà e tutti i monopoli che avevo ereditato come ultima dei Tudor. E lui era cattolico. Thank you. Io sono l'ultima dei Tudor. E i nobili hanno paura di chi non conoscono. E sotto il mio regno li ho fatti arricchire. Soldi da sperperare in maniera inutile e volgare. Sono l'unica a poterlo fare in tutta l'Inghilterra e l'Irlanda. ipocrita. A volte penso che voi impariate da quel coso che avete in mezzo alle gambe. Ma non siete d'accordo? Intelligenza, furbizia, cultura. Voi siete il bel esempio di tutte quelle scienze. State attento. Ah, forse voi pensate che la vostra regina abbia un corpo fragile e debole di una donna. Ma il suo cuore e il suo fegato sono quelli di un re. La regina d'Inghilterra. Ah, vi faccio ridere. Che coraggio. Non avete più paura del mio potere. Potrei mandarvi al patibolo senza nessun ostacolo. Lo sapete quanti cortigiani sarebbero pronti a prendere il vostro posto? E poi, quando una testa cade, la gente si eccita. Il sangue risveglia gli istinti animali. Una testa rotola e il boia la mostra alla platea. Molto più affascinante. Molto più affascinante di tutti quei morti nell'Amleto di quel Shakespeare. Ci sono molti più spettatori sotto un patibolo che in teatro. Si vede che lo spettacolo dal vivo è più affascinante. Alla mia corte dice che io sono terrorizzata dalla morte. Ma dica quello che voglio. La morte mi accompagna da quando sono al mondo. Non sarebbe difficile trovarsi un bel pugnale conficcato nella schiena. Ma la morte è come un cane. Azzanna chi ha paura. E io non ho paura. Ma mi ha dato a fare in culo così tante volte che quando verrà ritroverà viva. Che vi ho aspettato nella mia camera legale tante sere. Beh, in qualche modo dovevo pure passare la notte. E visto che siete venuto qui a rompermi, vi dirò con sincerità che non vi ho mai amato. Ah, mi dispiace levarvi quell'illusione di tenermi in pugno, quella che hanno tutti quei bei cavalieri pronti ad essere usati, che pensano di avere il trono d'Inghilterra e d'Irlanda nelle loro mani soltanto perché quando mi cavalcano mi tengono sotto. Con l'esperienza ho imparato quanto siano stupidi e cortigiani che si affannano intorno al potere. Proni, servizievoli, sorridenti, disposti a tutto, anche all'illusione dell'affetto. E io gli do quello che loro mi danno. L'illusione. Abboccano sempre! E tu? Tu li vuoi tenere in gabbia, li vuoi mettere uno contro l'altro come dei topolini e non sono pronti a commettere nefandezze! Intorno a un trono non c'è né affetto, né amicizia, solo tornaconto. Non parlate d'amore. Non ho mai potuto vivere sotto il cielo una storia d'amore. E mi sarebbe piaciuto. Mi sono privata di affetti, sentimenti, per sopravvivere. Ma avrei voluto vivere una storia d'amore. Avrei voluto essere invasa come un'ossessa da una passione incontenibile, mutarmi in acqua, liquefarmi, condurmi con i fiumi fino al mare, libera, libera. passato è passato. E forse non ci rimane neanche uno straccio di futuro. Si gioca con il potere, ci vuole molto, molto di più. Voi siete stata il mio incubo per anni. I cattolici sostengono che voi siate la legittima erede in quanto figlia della sorella minore di mio padre e io, una Tudor, una bastarda. Vacillare il mio trono. Potevate fuggire al di là dell'oceano, potevate andare in Francia, potevate andare dal vostro beneamato Papa. No, voi siete qui come una regina davanti alla sua serva. Il trono d'Inghilterra è profanato da una bastarda e il nobile popolo britannico è ingannato da un'astuta istriona. Se regnasse il diritto, voi ora sareste qui, nella polvere, in mia presenza, perché sono io, la vostra regina. Voi siete una pazza. Voi, la mia regina. No. Io vi condanno per congiura. Io vi tolgo di mezzo. E così tornerete dal vostro Dio! Thank you. una Madonna. Non si può? No? Allora, io pretendo la vita eterna. Il potere non fa regali. Il potere non se lo può permettere. Il potere si nutre di potere. Ah sì? Non ci sarebbe una regina? La regina vergine, la bastarda.